moto celebrativo, mai col fare da divo, sempre al centro del conflitto, sempre vivo, mai nascosto dietro un dito, mai parlato all'infinito, sempre vero quando scrivo, sempre bandito. La mia generazione è disorientata, vuole la rivoluzione ma non sa di che parla, non studia, non legge, non vive la strada, ma fuma le siga di Ernesto Che Guevara. Dove vivo ad esempio quasi ogni persona crede che Antonio Gramsci sia una traversa di via Roma, e non parliamo di Lenin, la maggior parte della gente crede sia il centravanti dello Zenit. San Pietroburgo, che dalla pronuncia crede sia una città tedesca situata nei pressi di Amburgo, poi si sputtana lo stipendio al videopoker e si incazza col governo se rimane a tasche vuote. La mia generazione è fatta di uomini che spendono in cosmetici e centri estetici più delle donne. La mia generazione dorme oppure scappa, non scende in piazza, resta immobile a farsi ipnotizzare da un plasma. Le scarica il figlio nelle braccia della tata, si rifà le tette per pagarle un'altra rata, lui corre alla SNAI e fa l'ennesima puntata, magari su una partita che è stata già truccata. La mia generazione ha la possibilità di cambiare il sistema, ma se prima non si fa un esame di coscienza e prende posizione, i nostri fuochi si trasformeranno in bolle di sapone. Non puoi spegnere l'incendio che divampa, e non ti basterà tutta quanta l'acqua. È un pugno chiuso in faccia se prendo il microfono, l'asfalto puzza di benzina e i due martelli si incrociano. Non canto per nessuna scena ma solo per la mia classe, non ascolto i vostri dischi, non vedo le vostre marche, parlo coi loop, chiamami Kevin Costner, con le ginocchia su come su un pezzo dei posters. Dai tempi in cui 50 Cent si chiamava mille lire, picchio duro sull'acciaio con le rime incise col fuoco, il sangue e il sudore, proiettili nelle parole, chi mi vuole zitto muore. Siccome per me non è lavoro né passione, è una missione, sfogo odio e rabbia in questa direzione. Incendio una bottiglia, te la lancio a tempo, i moderati siamo noi che non vi abbiamo ancora appeso. Le fiamme sono alte, non riesci a fermarle, le fiamme sono alte dietro le barricate. Non puoi spegnere l'incendio che divampa, le fiamme sono alte, non riesci a fermarle, e non ti basterà tutta quanta l'acqua. Le fiamme sono alte dietro le barricate, non lo spegni l'incendio che divampa, le fiamme sono alte, non riesci a fermarle, e non ti basta tutta quanta l'acqua. Tutta quanta l'acqua. Ma io un celebrativo, mai col fare d'attivo, sempre al centro del conflitto, sempre vivo, mai nascosto dietro un dito, mai parlato all'infinito, sempre vero quando scrivo, sempre bandito.